Siamo con Saverio La Ruina per parlare della 19ª edizione di Primavera dei Teatri a Castrovillari dal 27 maggio al 2 giugno. Saverio, ben trovato. Bentrovato Federico e chi ci ascolta. Senti, per chi ci ascolta, intanto descriviamo questa entità, Primavera dei Teatri. Ce lo dici, Saverio? Primavera dei Teatri, vabbè, festival di teatro su nuovi linguaggi della scena contemporanea che si tiene a Castrovillari sempre più o meno tra fine maggio e inizio giugno. Ha una particolare attenzione sulla nuova drammaturgia, non solo italiana, anche se in grande parte, e anche insomma, un occhio molto attento all'ultima generazione teatrale, quindi anche accogliere veramente compagnie che stanno emergendo e qualcuna che addirittura, diciamo, è sconosciuta totalmente. Chiaramente poi ci sono anche artisti che sono cresciuti in questi anni di festival, quindi ci sono anche, diciamo, artisti più maturi, più riconosciuti, hanno una loro posizione all'interno del panorama teatrale italiano, ma che sono nati giovani anche col festival, quindi c'è una ragione anche della loro presenza. Sì, ecco Saverio, come è nato e come si è sviluppato come progetto? Ma il progetto, vabbè, è nato anche, diciamo, con un'esigenza proprio nostra da calabresi di non fare sempre soltanto viaggi in giro per l'Italia, appunto a raggiungere spettacoli che noi insomma, avevamo bisogno di vedere, cose che naturalmente continuiamo a fare, però questo ci ha permesso di portare tra i 15-20 spettacoli in Calabria e quindi diciamo un po' evitare a spesso questi viaggi che a volte per un solo spettacolo praticamente impiega a rimanere 2 giorni. Lo continuiamo a fare, ma magari un po' di meno. E soprattutto per dare la possibilità anche a una regione che comunque ed è sotto gli occhi di tutti, se non l'ultima tra gli ultimi per consumo culturale e anche per produzione culturale in Italia, di non sentirsi cittadini di serie B. E penso che cominciare a non sentirsi tali in ambito culturale sia una grande cosa, insomma, sperando che da lì nascono altre azioni virtuose. Quindi è nata con questo, e poi anche con molto coraggio, perché abbiamo puntato subito su gruppi che portano avanti appunto un lavoro di ricerca su nuovi linguaggi, chiaramente non cose astruse. Siamo stati sempre molto attenti nelle ricerche, nelle scelte e quindi molto coraggio, dico, perché in Calabria allora si masticava soltanto il teatro dei grandi nomi. Noi abbiamo cominciato in modo totalmente all'opposto e chiaramente cominciando con qualche difficoltà all'inizio, ma vedi la lungimiranza poi a volte, passato già qualche anno si sono cominciate a riempire le sale, oramai veramente non sappiamo più dove mettere il pubblico. Certo, non abbiamo le sale a 500 posti, ma facendo 3 spettacoli al giorno, comunque con delle sale che hanno tra i 200 e i 300 posti, questo mi sembra un grande risultato, e farli in Calabria a maggior ragione. Ecco, che tipo di lavoro fate durante l'anno per cercare lavori da portare poi al festival? Guarda, c'è chiaramente uno sguardo sempre molto attento, nel senso che poi diventa una deformazione professionale, cioè tutto Sì, quello sì. che si scrive, tutto quello che appunto sulle riviste specializzate o che passa su altri canali, quindi c'è grande attenzione a quello che succede in Italia e non solo. E oltre a questo, a noi arrivano veramente sui 250 video di appunto compagnie teatrali, dove chiaramente quella che conosci bene, che ha maturato un percorso, non è neanche forse tra questi, perché utilizzi altri modi per capire appunto l'entità del lavoro, e spesso, diciamo, scopri invece delle nuove cose, di compagnie mai risconosciute. È un lavoro, devo dire, che, come dire, non so mai se il gioco vale la candela, perché vedere per 200 video, per scegliere poi 2 o 3 spettacoli, perché Certo. questa poi è la percentuale che entra in gioco, insomma è un lavoraccio, Sì, però sì. abbiamo voluto, come di prenderci l'onore, diciamo, di questo festival, che è una bellissima creatura, e ci prendiamo anche naturalmente, ci deve, ci spetta anche l'onere. Senti, è un festival che vive anche durante tutto il corso dell'anno, quindi non si concentra solo in questa data di fine maggio, inizio giugno. Insomma, che tipo di progetto a largo respiro avete messo su? Vabbè, poi della risposta di prima c'è da dire che il festival ha anche una tale, fortunatamente, diffusione nelle menti e nei cuori dei teatranti italiani e non solo, che molti chiaramente ci facilitano anche il fatto, il Certo, lavoro, anche certo. proponendoci, Sì, quindi sì. facendosi conoscere. Questo facilita anche, diciamo, sapere a 360 gradi per quanto è possibile quello che succede in Italia. Allora, durante l'anno, diciamo, i festival sono quei 7, 8, 10 giorni secondo gli anni, le risorse. Però sì, c'è un lavoro. Noi abbiamo gestito anche un teatro su Cosenza, il programma negli ultimi anni con vicissitudini diverse, a volte riuscendo a fare un programma più nutrito, a volte meno, e in qualche modo, diciamo, dove non avevamo mai l'assillo delle prime, Sì. potevamo agire anche su spettacoli, diciamo, che già rappresentati, però abbiamo continuato a lavorare, diciamo, sullo stesso, diciamo, con uno sguardo simile dal punto di vista dei linguaggi scenici, e lì abbiamo creato, devo dire, anche una bellissima attenzione. Tantissima gente da Cosenza viene durante il festival a Castrovillari. Bene, bene. Raccontiamo anche un po' brevemente l'esperienza. Ecco, una cosa che Sì. no, durante l'anno, no, forse questo devo dire, perché è una cosa anche che riteniamo di Sì. importanza. Quest'anno, anche in collaborazione con Fabula Mundi e con l'associazione PAV di Roma, che stanno con questo progetto Fabula Mundi, è di scoperta di autori, di drammaturghi europei e italiani, quindi crea una serie di scambi, mi sembra, tra circa 10 nazioni dell'Unione Europea. In questo contesto noi, appunto, adesso abbiamo attivato una collaborazione con loro e abbiamo selezionato tra i loro autori e i loro testi tre testi di tre autori europei giovani, ma che sono già anche abbastanza rappresentati anche in Europa, quindi hanno già una certa eco. Li abbiamo affidati a tre giovani compagnie calabresi, perché poi uno dei compiti del festival è stato quello anche di provare sempre a iniettare dell'energia, stimolo, creatività anche tra le compagnie calabresi, dove c'è un certo fermento, ma dove ancora ci sono margini proprio di crescita anche qualitativa. E gli abbiamo affidato appunto questi autori, questi testi, non abbandonandoli, nel senso che loro stanno lavorando già penso da gennaio-febbraio sull'allestimento di questi testi, ma abbiamo creato anche una settimana di incontro in cui questi autori, un cecoslovacco, un polacco e una francese di origine rumena, che sono state una settimana con le compagnie e quindi hanno avuto un interscambio sul lavoro che stanno mettendo in scena, scritto da questi autori. E poi allo stesso tempo abbiamo messo anche un operatore, un critico, uno sguardo esterno che ha lavorato anche loro 3 giorni per avere un feedback da uno sguardo professionale. E questi debutteranno all'interno di Primavera dei Teatri. Quindi questo è stato un lavoro anche che appunto è stato fatto durante l'anno. Saverio, dicevo prima, accennavo prima, se possiamo anche dare qualche accenno sull'esperienza scena verticale. Proprio della compagnia, dici? Sì. No, la compagnia, che è nata qualche anno prima del festival, in qualche modo è anche nella. Anche noi siamo una compagnia che appunto ha cercato un suo modo anche originale di portare in scena i propri spettacoli, e in qualche modo siamo colleghi e compagni di viaggio di tante compagnie che presentiamo a Castrovillari, quindi è stata anche occasione di scambio negli anni anche per noi, di arricchimento, tutte queste presenze. E la compagnia ha avuto anche un percorso scena verticale anche pari interessante da quello che appunto sono state poi insomma anche una serie di attenzioni sulla compagnia, che ha un suo stile, ha una sua, diciamo, poetica. Adesso non posso parlarmi addosso, chiaramente, Federico, perché sono sulla mia compagnia. compagnia. Allora, ricordiamo la 19ª edizione di Primavera dei Teatri a Castrovillari dal 27 maggio al 2 giugno. Saverio, in chiusura ci dai tutti i Solo di qualche magari posso proprio dire al volo alcune compagnie che saranno presenti, vediamo se riesco Sì, oltre velocissimamente. a questo ci dai anche tutti i riferimenti internet per seguire la programmazione. Ok, allora, chiaramente ci sono molte prime nazionali, anteprime, tra le quali Forte Braccio Teatro di Roberto Latini, che tra l'altro lavora su un classico che è Sei personaggi in cerca d'autore, con un titolo diverso, Sei e dunque perché si va a meraviglia di noi. Allo stesso tempo, sempre su un grande classico, stavolta Amleto, la compagnia Berardi Casolari, che lavora su Amleto Take Away, capendo come interagisce la materia classica appunto, nelle istanze della nostra attualità. Ci sono spettacoli che vanno direttamente poi dentro l'attualità, come con la prima nazionale, appunto, i Babilonia Teatri con Calci in culo, e per dire anche lo spettacolo di Quotidiana.com, che è Scienza versus Religione, che è un altro, diciamo, tema, capire quali sono le consonanti, diciamo, dove si crea contraddizione, dove invece le cose possono invece trovare un dialogo. E c'è un ritorno anche bello che è del Teatro dell'Ariete. Loro partirono con un bellissimo teatro da mangiare tantissimi anni fa e fanno attorno a un tavolo ancora un lavoro che mette insieme il pubblico e il privato. C'è Essere bugiardo di Carlo Guasconi, che vinse il premio Tondelli anni fa circa. C'è Mimmo Sorrentino, con un altro la prima nazionale, Occhi sul mondo con un'altra prima nazionale, il Teatro dei Borgia con Eraclidi, Fabrizio Sinisi, anche questo in prima nazionale. Chiaramente dipende, come ti dicevo, appunto, le tre compagnie calabre del progetto Europe Connection, di cui parlavo prima. Ci sarà poi, appunto, il Teatro Sotterraneo, Amor Vacui, una giovanissima compagnia che sta facendo cose molto interessanti, Punta Corsara, giovane compagnia ma già emersa in modo prepotente da un po', che è appunto bar, no, Nella Fossa, il titolo. Insomma, questo, come anche una compagnia di Lugano con Amore di Cucito, Officina Teatro, appunto sui rapporti, sulle questioni di genere. Insomma, molto ricco. C'è anche poi una sezione Europa Primavera Teatri Kids, con un laboratorio anche per, appunto, avvicinare i piccoli all'esperienza Primavera dei Teatri, che ha avuto successo anche 1 o 2 anni fa, e quindi proseguiamo questa esperienza. Per quanto riguarda i riferimenti, proprio per primaverateatri.it, lì ci stanno tutte quante, diciamo, Tutte le ci sta indicazioni. tutto riguardo al Sì, festival, sì. gli spettacoli, quando saranno, i luoghi dove saranno, ma anche come raggiungere Castrovillari o delle escursioni che ne abbiamo fatto, che abbiamo questa montagna bellissima, il Pollino, anche in mare a 2 passi, e quindi abbiamo creato delle escursioni con delle guide, e sia il pubblico, gli operatori possono farsi anche queste esperienze collaterali. Bene. Si mangia bene, bene, insomma, venite, insomma, può essere un bel periodo, un bel luogo dove stare qualche Certo. giorno. Saverio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie.